Sì, ho iniziato. Ho portato la bibliografia cartacea in modo che possiate o copiarvela o fotografarvela. Io poi la stringerò, ve lo dico, internamente, non esternamente sulla porta, così evitiamo che, come già è accaduto in altri frangenti, sparisca. Solitamente non da parte vostra, sapete, le sparizioni quasi sempre sono operate da adulti, nel senso di abitanti al di qua, non al di là, buon intenditore. E quindi, se volete annotarvela, io confido sempre di vederla prima o poi apparire magicamente sul sito. Una copia poi verrà da me depositata in biblioteca, così qualora ci fossero anche così degli interessi particolari o degli approfondimenti, sappiate che la biblioteca è già allertata, sa già. E ora, velocemente dato, scusate, ma oggi è stata una giornata un po' particolare, e così poi possiamo procedere a parlare di questa bibliografia, perché il primo testo, che è il più costoso, sappiatelo, e che in parte è fuori catalogo, per cui lo trovaste, è un testo in Audi della raccolta Arancione, per capirci, nel caso lo trovaste gli costerebbe una cifra. Io ho già dato disposizione in biblioteca, non essendo più edito, di conseguenza fotocopiabile a norma di legge, non siamo fuori legge, ho già fatto presente questa cosa in biblioteca. La biblioteca, non appena verrà fornita di toner, hanno finito il toner della fotocopiatrice e che non possono fare fotocopie, ne farà una copia apposita, in modo che possiate fotocopiare la fotocopia e non il libro, altrimenti andremo a distruggerlo. E non mi preoccupa il fatto che studiate su delle fotocopie, perché anche l'iconografia presente è in bianco e nero. Di conseguenza nulla verrebbe perso nel passaggio, diciamo, da cartaceo a stampa a cartaceo fotocopiato. Per quanto riguarda invece il resto, volutamente, e guardate che di bibliografia ne avremmo veramente da perderci in questo periodo storico, volutamente ho scelto dei testi editi da Abscondita, non perché io abbia interessi personali con Abscondita, disgraziatamente non è di mia proprietà, mi piacerebbe tanto, non fosse altro che per avere tutte le pubblicazioni gratuitamente. L'ho fatto perché è una casa editrice estremamente economica, per cui i testi costano massimo 20 euro l'uno, e quindi, considerato che siamo in un periodo, quello di studio che trattiamo, solitamente abbastanza caro, mi è parsa la casa editrice più accessibile. Anche in tal senso, a me interessa che voi studiate i contenuti dei libri, di chi siano, come siano, a me non interessa. Per cui, se voleste anche acquistare un testo e studiarci sopra in tre, a me va benissimo. A me non importa che arriviate con il libro nuovo, intonso, che sia vostro, che sia anche di una biblioteca civica. A me interessa che voi abbiate studiato il contenuto del testo. Per cui, vedete voi, insomma, comperarli, non comperarli. E calcolate appunto che i tre testi di Abscondita dovrebbero costare tutti 18 euro. Beh, 18 euro ciascuno, vero? Di che cosa trattano? Anche qui, sul Rinascimento c'è solo l'imbarazzo della scelta. Volutamente ho scelto il testo di Pater, o di Pater, come preferite pronunciarlo, perché è quello che meglio si lega alla costruzione di questo corso. Per cui non è un testo rigoroso sul Rinascimento italiano storicamente inteso, perché lì non ci basterebbe un'intera enciclopedia, lo capite meglio di me. Chi tra voi è italiano ed è cresciuto o è cresciuto in Italia sa esattamente che per noi il Rinascimento è la culla di ogni sapere. Quindi abbiamo bibliografie italiane e tedesche in modo particolare vastissime. Ho scelto questo perché è una lettura semplice, non eccessivamente complessa e articolata, che vi dà in un certo senso i punti di riferimento necessari per questo corso. Quindi non aspettatevi un manuale sul Rinascimento, perché quelli li avete già frequentati e li avete già avuti a scuola. Io preferisco invece una cosa specifica, legata proprio a questo tipo di corso, e quindi questo testo meglio, a mio avviso, si presta. I due testi su Bosch sono delle letture, degli approfondimenti, soprattutto per quanto riguarda le nozze di Cana. Abbiamo a che fare con un testo primo, o meglio, Frege è il più grande esperto su Hieronymus Bosch che sia mai esistito. Le nozze di Cana sono la prima pubblicazione che realizza, poi tradotta in varie lingue, su Bosch, e quindi questo testo, che ha per titolo un titolo di Bosch, il titolo di un'opera perlomeno attribuita ad un'opera di Bosch, è un'analisi ampia, non analizza solo ed esclusivamente quella tavola, ma fa un discorso generale sulla simbologia che troveremo affrontando direttamente Bosch. L'altro invece, quello sul Regno Millenario, che a sua volta porta il titolo di un'opera di Bosch, il titolo che a posteriori si dette ad un'opera di Bosch, altrettanto è ampio, perché la tavola trattata, che è di fatto il trittico delle delizie, è un trittico che affronta una serie di elementi presenti in molti altri lavori di Bosch. Quindi, fra tutto quello che anche Frangel ha scritto, ho scelto i due testi che meglio possano guidarvi dentro l'intera opera di Bosch. Non spaventatevi, dai titoli, non sono tomi enciclopedici, sono così, di spessori che di solito so interessare molto, cioè sono letture che una persona abituata a leggere fa in un paio di pomeriggi. Vabbè, insomma, poi dipende sempre di che cosa debba punirsi questa persona. Diciamo che in una settimana li leggete tutti. Ecco, se uno si mette di impegno in una settimana, legge dal secondo al quinto, d'accordo? Ce la fa. Il primo è già più articolato, perché quello proprio è un testo scientifico che vi guida nella comparazione tra Rinascimento italiano e pittura fiamminga. È già più complesso e ha un taglio diverso dal mio. L'ho scelto proprio per questo, perché in alcune cose la pensiamo in modo diverso. E a me piace che voi abbiate, come già dicevo ieri, a chi frequenta anche il corso di medievale, mi piace tanto che voi abbiate campane che non siano la mia e che la pensino in modo diverso. Perché un'opera può essere analizzata in epoche diverse, con delle affinità, ma può essere anche analizzata nello stesso momento da 20 persone differenti, avendo 20 letture diverse, se è un'opera d'arte vera, e tutte ovviamente corrette o tutte egualmente scorrette, perché là dove non vi sia l'autore che ci spiega in prima persona che cos'è quello che abbiamo di fronte, ricordatevi che si procede sempre e solo per teorie ed ipotesi. Le certezze lasciamole a chi studia troppo poco per avere dei dubbi, e vorrei non fosse il caso vostro. Sempre meglio un dubbio ad una certezza in arte, là dove non ci sia l'artista che ci dice esattamente come stanno le cose. E anche in quel caso abituatevi a dubitare, perché un artista in quanto tale è bugiardo, sempre. La verità non la racconterà mai sulla propria opera, per tutta una serie di motivi. A partire dal fatto che un'opera d'arte è sempre qualcosa di estremamente intimo e personale e privato. Di conseguenza non c'è motivo che il mondo sappia la verità in alcuni casi, no? Sull'opera. Possiamo provare piacere di qualcosa che è nato in un momento di infinito dolore. Il pubblico non lo saprà mai, non lo capirà mai. Dovesse capirlo, ve lo dico da storico, trovo sia corretto non scriverlo, perché rientra proprio nella sfera del privato. Ma questo fa parte delle mie demenzialità, sappiatelo. Fogli di firma, facciamoli passare, così ci togliamo tutti l'angoscia della presenza. Chi poi ha altre lezioni, visto che oggi abbiamo spostato, vada liberamente o arrivi pure più tardi spostandosi, non c'è problema. Avete dei dubbi su quanto ci siamo raccontati la settimana scorsa? Qualcosa che non vi sia chiaro? È chiaro tutto a tutti? Posso fare una domanda? Certo. Molto, molto pragmatica. Prego. Io non sono quasi mai l'ultima ora per l'altro corso, quindi mi ascolto poi la lezione, l'ultima ora, sì, di lezione. E mi è capitato forse nella penultima di non aver trovato esattamente l'opera poi su internet. Quindi forse è un po' noioso per lei dire esattamente il... Chi è e dov'è? Sì, esatto, va bene, non c'è problema, lo faremo. Così, così vi aiuta, va bene. Grazie mille. Prego, ha fatto bene, così poi da qui in poi anche le registrazioni vi aiuteranno di più. Ci eravamo lasciati con i coniugi Arnolfini. Grazie, però. C'era scritto sopra lo scritto. Eccoci. Avevamo parlato di una serie di cose, se vi ricordate, la settimana scorsa. Avevamo parlato di queste arance che in alcuni casi vengono anche menzionate come pesche. Guardate che non, a livello simbolico poca differenza fa. Sono comunque elementi legati alla fedeltà, alla promessa. Fossero pesche o albicocche, pesche se volete la dicitura in dizione, o albicocche, il significato sarebbe il medesimo. Perché? Perché sono frutti che al proprio interno hanno un nocciolo rigido dentro il quale c'è un seme. E quindi sono tutti elementi di resurrezione, di promessa, anche trinitaria in alcuni aspetti, proprio perché abbiamo tre livelli, tre strati. Il tre poi sovente ci ricorda i giorni della morte che precedono la resurrezione del Cristo e simbolicamente nel caso di nozze sono proprio la promessa di fedeltà, di mantenere fede ad una promessa fatta. Questo vale, vi ripeto, sia per pesche, albicocche, melagrane, anche la melagrana avrà questo significato, e le arance in modo particolare. Le arance, come già dicevamo la settimana scorsa, sono proprio un frutto legato profondamente alla promessa nuziale. E guardate che questo elemento noi, come già vi accennavo la settimana scorsa, la troviamo sia nella pittura fiamminga, sia altrettanto nella pittura rinascimentale italiana. Andrea Mantegna in primis. Come già vi accennavo, l'oculo, il famoso oculo della Camera degli Sposi a Mantova, dentro Palazzo Reale, presenta proprio delle piante in vaso di aranci. Da qui la tradizione di chiamare il bouquet da sposa fiori d'arancio o di inserire dei fiori d'arancio nel bouquet delle spose, proprio perché è simbolo di promessa legata alla fedeltà. Avevamo parlato dello specchio, di questo specchio particolare, e se siete d'accordo io ripartirei proprio da questo piccolissimo elemento. Sottolineo continuamente il fatto che si sia in presenza di un elemento piccolo, perché vi ricordo che lo specchio è poco più di 4 cm e mezzo, per cui siamo proprio in presenza di un elemento minuto. E ritorniamo per un istante su quelli che sono i personaggi sul fondo di questa immagine riflessa. Secondo la maggior parte degli studiosi siamo in presenza proprio di Van Eyck, del pittore, e del proprio assistente, del garzone, del ragazzo di bottega. Altri, e qui capite che l'interpretazione personale ha un ruolo fondamentale, perché se guardate bene, sfido chiunque a dire chi sia ritratto, perché non è che si capisca, vero? Abbiamo a che fare, tra l'altro, con due immagini che ci ricordano la figura umana, accennate con due peli di pennello, cioè sono proprio colpi di pennello minutissimi, non riusciamo ad avere l'identità di queste figure, per cui tutte le ipotesi sono corrette, tutte altrettanto poco corrette. Secondo altri, coloro che soprattutto abbracciano l'idea che quest'opera sia il momento in cui i coniugi Arnolfini si sposano, ritengono, questi altri storici, che le figure siano ipoteticamente il pittore e il proprio garzone, ma potrebbero anche essere due figure aristocratiche, o potrebbero essere le figure che stanno a ricoprire il ruolo di testimoni, sarebbero i testimoni di nozze, e quindi dovremmo immaginare un notaio, perché comunque il notaio era indispensabile per la stipula matrimoniale, presenti appunto soltanto per così confermare, verificare che ci fosse questa stipula. Personalmente ci credo poco, ma vero, è la mia opinione, assolutamente discutibile. A mettermi, diciamo, dall'altra parte del versante della ricerca, cioè dalla parte che vedrebbe con più facilità in queste due figure il pittore e il suo assistente, sono una serie di molte altre opere, che noi non andremo a vedere perché vi ucciderei, dove protagonista è lo specchio convesso, e dove molto sovente l'artista ritrae se stesso. È un modo molto elegante, molto raffinato, molto sottile di immortalarsi all'interno dell'opera pittorica che è andato a realizzare, senza troppo apparire. Per cui non sarebbe una prima volta, sarebbe l'ennesima volta, sarebbe la conferma di una tradizione, o se preferite l'inizio di una tradizione, là dove appunto l'artista inserisce se stesso nella tavola con lo stratagemma dello specchio. Per cui non è tra i donatori, non è tra i santi, gli angeli, come già Giotto più volte ha fatto, così come Mantegna fece e molti altri artisti prima e durante i loro periodi. Qui saremo invece in una situazione molto più discreta, dove noi dobbiamo andare proprio a cercare chi c'è nello specchio per scoprirlo. E guardate che questo rientra proprio nei giochi fiamminghi di queste tavole, il fatto di indurre l'osservatore a non fermarsi al colpo d'occhio, a non fermarsi alla prima vista, perché non è mai sufficiente. Anzi, 9 volte su 10 la prima vista di un'opera fiamminga è niente, non ci lascia neanche iniziare il discorso, proprio perché sono opere volutamente costruite per essere viste più e più volte e per essere comprese, come già dicevamo, anche non da tutti, ma solo da alcuni. Il fatto poi che, già dicevamo, questa tavola ci dia una serie di micro elementi estremamente confidenziali, come gli zoccoli disordinati, ci induce a pensare che sia questo uno spazio già frequentato e già intimo per questi due personaggi. Non sia l'inizio di una storia, ma sia una storia che già c'è. Su questo cane, come già vi dicevo, vero, hanno scritto di tutto e di più, simbolo di fedeltà, simbolo di familiarità, animale domestico, amico dell'uomo, ci sta tutto. Non sapremo mai, perlomeno finché non troveremo la pezza giustificativa di Van Eyck, perché proprio questo tipo di cane, perché proprio in primo piano e non un alano, come invece era moda dell'epoca, posizionato sul fondo di questa stanza, a guardia, sonnecchiante all'interno di questa stanza, per dare l'idea di un luogo che comunque è un luogo sorvegliato ma sicuro. E questo, guardate, che noi l'abbiamo visto tantissime volte nel gotico internazionale. Penso ai cani di Pisanello, per esempio, o dello stesso Mantegna. È un cane desueto, proprio perché, vi dicevo, è una razza non pregiata, non preziosa, non aristocratica, quanto invece saranno i dalmata, saranno gli alani e saranno soprattutto i levrieri. Ma dicevamo, quelli essere tipologie di cane legati alla caccia nel frangente della falconeria. Per cui è proprio un elemento aristocratico. E dicevamo, i coniugi arnolfini sono ricchissimi, ricchérrimi se volete, ma non aristocratici. Ci eravamo lasciati con la suspense di ciò che sta sotto lo specchio, che è forse uno degli elementi che personalmente trovo più interessante di tutta l'opera. Scusate, non sotto, sopra. Ed è l'iscrizione. Oh, intorno a questo specchio abbiamo una collana di cristallo di rocca e abbiamo uno scopino, tipico proprio per togliere la cenere, vero, dal fronte del camino. Anche qui, su questo scopino hanno scritto di tutto e di più. Ma non pensiate male, scopino nel senso di oggetto sempre legato al focolare domestico, alla fedeltà, al fatto che questa sia una donna dedita alla casa, dimenticandosi che donna Arnolfini vive come un'aristocratica e quindi casa non l'ha pulita mai. Dettaglio che forse sfugge a molti uomini che hanno scritto di storia dell'arte, da uomini. La collana di cristallo di rocca, anche su questo, fiumi di inchiostro. moltissime volte, vediamo se c'è un primo piano migliore, moltissime volte è stata letta come rosario. No, come un rosario, forse qui lo vediamo meglio, come se fosse un rosario. Ora, guardiamolo bene, ditemi come si può chiamare rosario. Non abbiamo la divisione in 10 grani, non abbiamo il numero esatto per la recita di un rosario, questa è una collana, in tutto e per tutto. Tra l'altro ha le due perle finali, vicine ai nodi, più grosse, proprio tipico dell'epoca. Perché non ha fermaglio? Perché il fermaglio è una cosa che arriva tardissimo nell'oreficeria. Queste collane venivano fissate direttamente ai tessuti, agli abiti. Potevano essere fermate con delle spille molto preziose, così come vuole tutta la tradizione antica, vero, dal mondo etrusco, greco, romano, molto probabilmente anche assiro in avanti. Per cui la collana preziosa, solitamente guardate che era una collana, viene collocata in un posto importante per una serie di motivi, non da ultimo quello prospettico, quello proprio di costruzione dell'opera stessa. Non credo che la signora Arnolfini tenesse l'unica collana o una delle sue collane preziosissime appese ad un chiodo sopra il divano del salotto, sarebbe veramente un po' particolare questa signora Arnolfini. Serve invece, vedete dov'è ubicata, serve invece tecnicamente a Van Eyck per enfatizzare la capacità di filtrare la luce all'interno della tavola, quello sì. Buon senso avrebbe voluto che questa collana fosse una collana di perle bianche, perché lei è una donna integerrima, fedele, abbiamo tutta una serie di elementi di fedeltà, perché non mettere le perle che da sempre nella tradizione rinascimentale e tardo gotica anche sono elemento di purezza, di retta morale. La collana di perle poteva essere indossata solo dalle vergini o dalle giovani spose o dalle mogli straordinariamente fedeli. Venezia ne farà proprio una legge, severamente vietato alle prostitute indossare perle. C'era una tassa terribile per chi indossasse perle, non essendo una donna integerrima. Era proprio qualcosa di gravissimo. E guardate che anche questo si perde in un'antica lettura medievale legata al significato della perla a livello proprio teologico. Anche qui elemento di rinascita, di purezza, di magia. È un elemento magico che viene partorito, non si sa perché, ricordatevi in che epoca storica siamo, da una conchiglia. La conchiglia è un elemento di resurrezione, è uno dei tanti elementi che rappresentano la resurrezione. La perfezione, la meraviglia, lo stupore. Ragionate come una persona del Rinascimento, degli inizi del Rinascimento. La conchiglia è considerata di pietra. La conchiglia non è considerata vivente. Toccare la conchiglia è un po' come toccare un pezzo di pietra o un pezzo di legno. È inanimata, secondo la loro mentalità, vero? Capace però di avere al proprio interno una vita, il mollusco. Mollusco che a sua volta, bruttissimo, gelatinoso, puzzolente, ha per magia la capacità di partorire una perla, un elemento preziosissimo che nella casistica delle pietre preziose sta al di sopra delle pietre preziose stesse. È l'oggetto, l'elemento che può custodire al proprio interno attraverso le cangianze l'arcobaleno, la meraviglia del creato, La comprende che era un simbolo del Rinascimento. Ah, certo. Il neoplatonismo perché indicava la purezza, perché Platone... I neoplatonici, attenzione, vero, non sono Platone, sono due linee di pensiero simili ma non identiche, e tra l'altro che si sviluppano in epoche differenti. Io più che Platone parlerei di Plotino eventualmente, no? In questa fase storica. È per questo motivo che Botticelli farà nascere la sua Venere da una conchiglia, no? Proprio per quest'idea di purezza, di perfezione. Guardate che non avevano la consapevolezza invece che la perla nasce come elemento di disturbo all'interno della conchiglia, perché sapete, no? Si forma a causa di un granello di sabbia che non riesce a estromettere il mollusco. Attorno a quello, un po' come se fossero degli anticorpi, va a costruire la struttura stessa della perla. La madreperla viene utilizzata per proteggere il mollusco, per cui è, diciamo, il rifiuto che resta all'interno della conchiglia a diventare perla stessa. Secondo appunto la tradizione rinascimentale, assolutamente questo non avviene, e quindi c'è questa magia incredibile di elementi, a loro modo di pensare, incongruenti: l'oggetto inanimato, la conchiglia, l'oggetto animato, il mollusco, la perla, elemento di magia, che vivono insieme. Uno partorisce l'altro, uno custodisce gli altri. Perché non è una collana di perle, ma in un certo senso lo stesso significato? Perché la perla probabilmente gli avrebbe dato difficoltà. Siamo agli inizi della tecnica d'olio. È complicato lavorare per velature sul bianco, per lumeggiature bianco su bianco. Dovremmo attendere Vermeer per avere questo, cioè dobbiamo far passare quasi 200 anni. Utilizza in modo estremamente raffinato e scaltro, ai miei occhi perlomeno, il cristallo di rocca. Nella casistica teologica dell'importanza delle pietre, sopra la perla come importanza abbiamo proprio il cristallo di rocca, perché è trasparente, perché mi consente di vedere attraverso e perché in questo modo consente all'artista di lavorare sia sull'ombra proiettata a parete, doppia, sia sulla cangianza, proprio sulla trasparenza del materiale. Ecco che, se notate, c'è un lavoro straordinario sulle singole perle in cristallo di rocca, legato proprio al riflesso della luce, o se preferite ai raggi di luce che vanno a colpire le singole perle. E quindi noi abbiamo una luminescenza doppia in ogni perla, sopra e sul lato alla nostra destra, che viene proiettata a parete e che genera un'ombra. Cioè, capite che questo, che è un dettaglio che misura circa 3 centimetri, vero? Perché se è 4 centimetri e mezzo, quasi 5, lo specchio, vedete bene la proporzione. È un'inezia. Ma questa inezia, in modo incredibile, dimostra capacità tecnica straordinaria di Van Eyck, e gli serve, perché questa tavola va a casa Arnolfini. Sono i banchieri più potenti in quel momento, hanno ospiti prestigiosi che potranno commissionare altre tavole a Van Eyck. È un biglietto da visita di Van Eyck, e contemporaneamente dimostrano la significazione proprio teologica che i Paesi Bassi andranno a sviluppare sulla luce negli oggetti cari a Dio, di cui già abbiamo parlato più volte. Per cui capite che un piccolo elemento come una collana appesa ad una parete non è casuale, perché serve a tutta una serie di situazioni. Non mi dimenticherò e continuerò costantemente a farvi presente che la luce all'interno di queste opere ha una valenza religiosa, non è solo una valenza tecnica, anzi, E sarà proprio grazie a questa straordinaria capacità di elaborare i riflessi di luce sugli oggetti trasparenti o in metallo lucido che la pittura fiamminga diventerà famosissima in Europa e verrà anche imitata da molti e bravi, bravissimi artisti del Rinascimento italiano, proprio perché loro si erano specializzati in questo. E ricordatevi che Van Eyck è una apripista, è un caposcuola. Troverete infatti in molte altre opere che portano l'etichetta di opera fiamminga la presenza di vetri trasparenti che riflettono solitamente la finestra della stanza o che riflettono l'artista che sta dipingendo l'opera. In questo gioco, appunto, tra trasparenza e capacità di riflesso, vetro trattato come se fosse uno specchio, là dove magari la ricchezza, lo status economico non è così elevato da potersi consentire, da potersi permettere uno specchio convesso all'interno della stanza stessa. Guardate che appunto vetro e specchio in queste tavole hanno molto spesso la stessa funzione, di riflettere ciò che dentro la tavola non può essere dipinto perché a livello prospettico non ci sta. Ed è un modo per ribadire, vi ripeto, la straordinaria capacità tecnica di questi artisti. Prima di parlare dell'iscrizione, vediamo un istante ancora il dettaglio di queste mani di cui parlavamo già la settimana scorsa. In questo caso a me interessa ciò che sta dietro le mani, visto che di queste mani che si reggono, o meglio la mano di lui che regge la mano di lei, rappresentano, vi dicevo, un atto di straordinaria confidenza. Se avete voglia, andate a vedervi, a rivedervi le varie immagini degli sposalizi. Lo sposalizio della Vergine, sia quella di Perugino che quella famosissima di Raffaello, vi renderete conto che non si toccano. Le mani sono vicine, ma non si toccano, perché ancora non sono marito e moglie. È un atto di incredibile confidenza per l'epoca. So che a voi non fa né caldo né freddo, lo so. Cosa sta dietro queste mani nel dettaglio? Abbiamo dei cuscini sgualciti rossi. Guardate che il rosso, lo dicevamo già, come il blu, è un colore che spesso è presente in queste tavole, non solo perché ha una resa pittorica con la luce straordinaria, ma soprattutto perché è un colore preziosissimo, carissimo. Il rosso può essere bisso, ma può anche essere proprio ricavato dal trituramento dei molluschi, la porpora, quella vera. Sono entrambi materiali carissimi. Ancora oggi acquistare il bisso è quanto di più caro si possa fare per la tintura delle stoffe. Per cui parliamo proprio di centinaia e centinaia di euro per un metro quadro di pezza di tessuto tinta in bisso, ancora oggi. Gli altri elementi che ci interessano, e quindi questo rosso non fa altro che enfatizzare la ricchezza di questa casa, la ricchezza dei protagonisti che sono proprietari della casa. Altro elemento è costituito dagli elementi ornamentali del divano e di uno scranno che probabilmente è nascosto dietro di lei, vedete, appunto questa sorta di cassapanca, di panca. Cosa sono? Beh, sono dei grilli. In queste lezioni il termine grillo niente ha a che vedere con l'insetto, vero? Per grillo io intendo proprio quello che la tradizione ha tramandato dal mondo romano con la terminologia grillo. Il grillo è un mostro, è un'ibridazione. È quello che poi noi troveremo in Bosch, ripetutamente, quello che troviamo nelle grottesche. Sono ibridazioni che possono prevedere sia la combinazione, la mescolanza di animali differenti, che so, zampe di cicogna, corpo di rana e testa di leone. Sia possono essere ibridazioni tra elementi diversi, vegetale e animale. Radici al posto delle gambe e corpo di pesce, o coda di pesce e foglie che vadano a sostituire un corpo. Oppure l'ibridazione può essere tra il corpo umano e la vegetazione e il regno animale. E qui abbiamo veramente i grilli più bizzarri, e in questo corso arriverete a detestarli o amarli follemente, perché appena entreremo veramente dentro Bosch non faremo altro che parlare di grilli. Per cui mi raccomando, non confondete il grillo insetto, che non c'entra nulla, con invece questo modo di definire queste mostruosità, queste ibridazioni, che sono frutto in alcuni miti di metamorfosi, di cambiamenti. E guardate che il grillo, soprattutto in quest'epoca, non è mai positivo. Conserva su di sé tutto quel significato terrifico, mostruoso, tremendo di punizione che gli ha inferto il gotico. Per cui, a differenza di quanto sono stati fino al romanico, e dico fino al romanico perché abbiamo testimonianza di grilli, di queste ibridazioni già nel mondo fenicio, ma 2 anni fa, quando abbiamo lavorato proprio su un monografico legato al grottesco, ci siamo resi conto che questo grottesco parte molto molto prima. Siamo partiti da 8000 anni prima di Cristo, trovando già degli ibridi, trovando già dei grilli. Fino all'avvento del gotico, per cui dalla profondissima antichità fino all'avvento del gotico, il grillo ha sempre avuto un elemento scaramantico, di portafortuna. Io quando lo spiego penso sempre a un cane da guardia. Il cane da guardia, se ci pensate, è gentile con il padrone, con il proprietario, e ferocissimo nei confronti degli altri. Il grillo ha più o meno lo stesso significato. È offensivo nei confronti del nemico e amoroso, difensivo nei confronti invece di chi lo possegga. Le prime testimonianze nel Mediterraneo che troviamo, e vi ripeto, sono di epoca fenicia, ce lo danno su delle monete o su delle placche in terracotta, in pietra, delle dimensioni proprio di una moneta, come se fossero delle piccole medaglie da portare in tasca o da portare cucite dentro i tessuti, nascoste. Hanno proprio questo elemento scaramantico di portafortuna. Dal gotico in poi questo significato viene assolutamente rovesciato e il grillo diventa invece un elemento offensivo. È un monito, per questo noi lo troviamo sulle facciate delle chiese gotiche. Pensate a Notre Dame a Parigi. Il gargoyle non è altro che un grillo, è un'ibridazione, una mescolanza tra uomo e scimmia, tra uomo e bestia, nel senso proprio feriale, feroce del termine. Qual è il monito di questi grilli? Dal gotico in poi, il monito è quello di fare attenzione a restare in grazia di Dio, perché questi esseri non sono altro che esseri che in passato erano buoni, hanno dimenticato Dio e per punizione sono stati trasformati in mostruosità. Ricordatevi l'epoca in cui siamo. Tutto ciò che non è perfettamente in linea con i parametri della società è frutto del maligno, è frutto del diavolo, è una punizione inferta da Dio. Da qui anche l'idea di segregare i bambini nati con delle malformazioni, le persone che avessero delle gravi malformazioni, che non dovessero essere viste, per cui chiuse in casa, perché erano simbolo di una punizione divina. Non era la natura ad aver fatto un pasticcio. Nella cultura dell'epoca era proprio frutto di una mancanza, no, compiuta dalla famiglia. Quindi anche se una persona nasceva senza un atto, certo, anche quelli. Anche in quel caso. No. Ma capite che sono mentalità estremamente ristrette e legate ad un periodo storico, vero? Perché ringraziando il cielo. Ma non solo, insomma, quel che conta di una persona è che c'è e che esiste, no? Ma ricordatevi sempre di circoscrivere questo modo di pensare ad un'epoca ben precisa. Ecco che questi grilli probabilmente hanno anche in questo caso questo tipo di funzione, sono un monito, un avvertimento: restate in grazia di Dio. Non a caso poi verranno scolpiti sulle facciate anche delle dimore private, accanto all'ingresso solitamente, alla porta di ingresso, proprio come monito: fate attenzione, ricordatevi di comportarvi nel modo corretto, altrimenti potreste essere trasformati in questi elementi bizzarri. Così come invece nella tradizione gotica si pensava anche che questi mostri, soprattutto sulle facciate delle chiese, potessero animarsi di notte e andare a colpire. Da qui molto spesso la presenza di ali di pipistrello in queste mostruosità, andare a colpire coloro che si erano mal comportati, come se fossero l'angelo della morte che andava ad abbattersi su chi non fosse in grazia di Dio. Ecco qual è la loro funzione. Ecco perché in Bosch e prima di Bosch in Bruegel il Vecchio noi troveremo sovente queste mostruosità legate a situazioni in cui non si è in grazia di Dio, legate a situazioni infernali, diaboliche, per questo motivo. In più non dimenticatevi, anche l'anno scorso abbiamo a lungo parlato di questo termine, di che cosa significhi ibrido. Per noi ibrido è una semplice mescolanza, ma guardate che nel mondo tardo-gotico la mescolanza è peccato mortale. Da qui quello che ci dicevamo anche sul colore verde, no? Il fatto che il verde sia una mistura e che quindi in alcuni frangenti sia un colore negativo. Le scacchiere sono mescolanze di linee e quindi anche quelle appartenevano al diavolo. E tutta una serie di, diciamo anche così, manie superstiziose di quest'epoca. Ibrido deriva da hybris, über, mescolanza, o meglio tracotanza, arroganza. È ciò che l'uomo osa fare contro la natura. E per natura intendo proprio la perfezione divina. Il mondo della tragedia greca classica nasce come monito verso l'ubris. Nasce per istruire il popolo a non andare contro natura. Contro natura per il mondo classico significa scavare gallerie, là dove la natura non abbia fatto gallerie. Significa spianare colline, deviare il corso dei fiumi. Significa avere rapporti sessuali con dei consanguinei, il figlio con la madre, Edipo, la sorella con il fratello, il padre con la figlia. Sono tutti peccati di ibris. Si va contro ciò che la natura umana, eticamente strutturata, ha concepito. Da qui il termine ibrido. Quindi capite che è un termine che ha al suo interno una valenza estremamente negativa. Ecco perché dal gotico in poi gli ibridi, che sono sempre frutto di mescolanze, che sono metamorfosi, andranno legate al seguito di Lucifero, andranno legate all'inferno. Il fatto che siano intagliati in legno, che siano in pietra, non ha nessuna importanza, perché vi ripeto, nella loro mentalità, nella loro tradizione, potevano animarsi. Disney ne farà un cartoon meraviglioso, no? Il Gobbo di Notre Dame. Ricordatevi che Disney era uno studioso pazzesco della tradizione antica e che non ha mai fatto cartoni animati per bambini. Per cui il gargoyle che si anima e che è cattivo, che è buono, che si commuove, che piange, non è un'invenzione Disney, è frutto dello studio di Disney su quella che è la mentalità gotica. Chiuso l'inciso Disney. Quindi anche questi elementi presenti sono un monito. Ma andiamo alla cosa veramente interessantissima di questa tavola. Lo so che per voi sono matta, ma va bene lo stesso. Perché dico che è interessantissima? Perché ricordatevi, siamo in un periodo in cui non c'è il vezzo di firmare le tavole. Le opere si fanno, ma non è che si firmino, perché sono ancora frutto in molti casi di lavoro di bottega. Per cui avere l'autografo di Giotto è qualcosa, vero, che non esiste. O cercare anche l'autografo di Mantegna è un problema. Là dove ci sia una sigla che ci riporta Mantegna è magia. Qui Van Eyck fa una cosa quindi assolutamente nuova. Scrive il proprio nome, il proprio cognome, ci mette la data. Voi direte: dov'è la data? Eccola qui. Johannes, da qui poi Jean, Van Eyck, Fuit Eyck. E per me questo Fuit Eyck è incredibile. Lo so che avete già le camicie di forza in borsa pronte da mettermele, ma non importa. Perché secondo me questo Fuit Eyck è strepitoso? Perché lui non scrive quello che avrebbe fatto chiunque. Chiunque avrebbe eventualmente scritto fecit. Cioè è stato fatto da Jean Van Eyck. Van Eyck invece scrive che è stato lì, che lui c'era. Fuit Eyck significa che è stato qui. È stato presente. Egli stesso era qui. E qui capite bene che si apre un dubbio sul quale potremo parlare per ore. Non lo farò, siete salvi, non lo farò. Perché? Perché da mastro di bottega avrebbe dovuto scrivere fecit. Lo fanno i pittori, lo fanno i costruttori di strumenti, lo fanno i costruttori di mobili. Se appongono la propria sigla o la propria firma, lo fanno gli organari. Per cui coloro che costruiscono gli organi nello stesso periodo nelle chiese, di cui abbiamo testimonianza dei nomi e delle botteghe grazie proprio al fatto di incidere nel legno questo fecit, Van Eyck scrive che era presente. Allora, i casi sono almeno tre. Uno, andrebbe a confermare questa teoria che coloro che sono nel quadro sono i testimoni di nozze, perché allora significherebbe che Van Eyck era uno dei testimoni alle nozze dei coniugi Arnolfini. Fuit Eyck era la formula che si utilizzava proprio nei testi notarili da parte dei testimoni, cioè io ero presente, io c'ero. Il famoso io c'ero, posso dirlo, nasce da qui. E quindi questa sarebbe, diciamo, una sorta di conferma, una sorta di sigillo matrimoniale. Lo firma nei documenti, ma lo appone anche all'interno della tavola. Prima possibilità. Seconda possibilità. Decide di dichiarare la sua presenza all'interno della tavola, dicendoci che lui è stato all'interno di quella stanza e che lui è rimasto in quella stanza immortalato dallo specchio. Non a caso lo specchio è sotto questa iscrizione. Avrebbe potuto scriverla qui, no? Sarebbe stato un luogo più sensato, uno spazio più sensato, o qui. Avrebbe potuto nasconderlo, diciamo, nell'iscrizione interna del baldacchino del letto, come altri artisti faranno. Avrebbe potuto fare come avrebbe fatto Andrea Mantegna, che l'avrebbe posizionato fintamente, scolpito su un mobile, o su una colonna, o su un pezzo di marmo. Decide invece di posizionarlo al centro della tavola, o perlomeno nel punto dove l'occhio di ogni osservatore va a cadere. Io istintivamente non guardo i coniugi Arnolfini, istintivamente guardo l'oggetto più luminoso di tutta la stanza, il lampadario. E subito sotto ad attirare la mia attenzione è lo specchio, perché ha una forma desueta. Capite che ciò che sta tra il lampadario e lo specchio è proprio l'iscrizione, è il suo nome. L'altra possibilità è che lui decida, o sia avvezzo, a nostra insaputa, a firmare in questo modo. Ma vi ripeto, sarebbe un errore. Mi pare strano. Avrebbe dovuto scrivere fecit, se fosse questo il caso, e non avrebbe proprio avuto motivo di apporlo dentro il dipinto, in una posizione così importante, perché è un atto di estrema arroganza nei confronti del committente, di chi lo paga, perché è come se Van Eyck dichiarasse la proprietà di questo oggetto. Oh, e poi non vi dico tutta invece la parte letteraria da romanzo, che lui abitava lì, che lui aveva soggiornato nella stessa casa, che vi era un legame particolare con la signora Arnolfini. Capite che qui vero ogni fantasia demenziale ha possibilità di esistere. Lo escluderei categoricamente per tutta una serie di motivi. Primo, non era ricco quanto gli Arnolfini, quella casa non avrebbe mai potuto permettersela. Secondo, fosse mai stato l'amante di donna Arnolfini, sarebbe proprio stato fuori di testa, vero? Nell'apporlo sulla tavola pagata da Giovanni Arnolfini. Terzo, se questo è un biglietto da visita, se questo potenzialmente lo porterà a vendere moltissimo, ad avere altre commesse da parte degli ospiti, degli amici di famiglia Arnolfini, ma vi pare che va a realizzare una cosa così arrogante? Non c'è motivo. Ma se questo è un biglietto da visita, mettere il nome in quella posizione è anche un modo per dire a tutti chi ha fatto cosa, senza ombra di dubbio. È un modo per indurre gli ospiti di casa Arnolfini, che sanno leggere, nell'andare a vedere l'opera e ricordare chi l'ha fatta. Questa è un'altra lettura ancora. Ma anche questa, secondo me, è eccessivamente fatta con gli occhi del contemporaneo. Questo lo faremmo noi. Non lo avrebbe fatto un artista dell'epoca. Vi ripeto, un'azione troppo arrogante, in una posizione troppo importante. Per cui, se siete d'accordo, possiamo tenere buone le possibilità sia dell'atto notarile, per cui del suggello, della presenza come testimone di nozze, sia il desiderio, ovviamente concordato con Giovanni Arnolfini, vero? Queste cose non si possono improvvisare, non si possono creare ad insaputa di chi paga. Vi sia questo nome per indurre l'osservatore a cercare Van Eyck all'interno del quadro e andando di conseguenza a spiare dentro lo specchio, minuscolo specchio della tavola, cercando dove sia posizionato Van Eyck, visto che io non lo vedo, e quindi lo cerco. E questo è molto in linea con la tecnica fiamminga dell'epoca. e credo di avervi tediati a sufficienza su questa tavola, ne abbiamo parlato e potremmo parlarne veramente per giorni. Vi ricordo, vero, che le sue dimensioni sono assolutamente ridotte. Vi prego, non immaginatevi un'opera a grandezza naturale, è una piccola tavola tipica proprio della camera da letto. Una tavola che non è improbabile, così come tutte le tavole all'interno delle camere da letto, avesse una tenda davanti, fosse nascosta. Questo rientra proprio nella tradizione antica, non solo fiamminga, anche italiana. La tempesta di Giorgione, che ha più o meno le stesse dimensioni, è sempre stata nascosta da una tenda. Moltissime opere di Lorenzo Lotto erano custodite, nascoste da una tenda. Era tradizione, era vezzo. Non si faceva vedere qualsiasi cosa a chiunque. Si sceglieva a chi far vedere. Da qui anche la tradizione degli sportelli nelle pale d'altare, per esempio, o sulle facciate appunto degli organi. Proprio per decidere in quali momenti dell'anno, liturgico in chiesa o di altre situazioni, far vedere l'interno. Questo è vitale per capire Bosch, se no non riusciamo a capire perché i suoi trittici siano sempre a sportello, possano chiudersi. È una tradizione più ricca dell'idea della tenda che nasconde l'opera. E io passerei, sempre restando e chiudendo, perché poi a Van Eyck continueremo a tornare per una serie di rimandi, io vedrei insieme a voi il famoso trittico di Gand. O il polittico dell'agnello mistico. Lì sta sempre alla dicitura che possiamo trovare nei vari testi. Oh, si chiama di Gand perché è a Gand. Siamo nelle Fiandre. E pensate un po', ci viene descritto anche da Dürer. È considerata fin dalla posizione, dal suo posizionamento all'interno della chiesa di Gand come uno dei grandi capolavori dell'arte, al punto che appunto Dürer lo descrive con grande attenzione e lo considera immensamente prezioso e stupendamente bello. Per cui qualche cosa che era considerata veramente una delle meraviglie. Qui, se notate, abbiamo già delle peculiarità che abbiamo visto nelle altre opere. A colpo d'occhio, la presenza architettonica del gotico, tutta la parte sottostante, no? L'idea della nicchia, che abbiamo lasciato anche, se vi ricordate, nella Maria della Cattedrale Gotica. Abbiamo l'idea dell'Annunciazione, dove l'incarnazione avviene attraverso una colomba. Siamo in uno spazio chiuso per quanto concerne l'Annunciazione e, a colpo d'occhio di già visto, nella parte sottostante abbiamo la cosiddetta grisei o, se preferite, il monocromo. Se lo chiamiamo monocromo ci capiamo meglio, che abbiamo visto proprio legato, se vi ricordate, all'Annunciazione. L'idea appunto di statue ritratte dalla pittura, questo contendere che Vasari farà proprio nel decidere chi sia migliore, quale sia l'arte più alta, se la scultura o la pittura. Ma di questo già abbiamo detto la settimana scorsa. Abbiamo i donatori nella parte inferiore. Quest'uomo inginocchiato in un'ampia veste rossa, preziosissima, orlata di zibellino o di visone, e la moglie. Noi sappiamo che molto probabilmente tutta l'opera venne realizzata da Van Eyck e da alcuni aiuti. Qualcuno ipotizza anche da questo fratello di cui non abbiamo certezze, perlomeno secondo alcuni. Santi, coloro che sono ritratti all'interno di queste nicchie come se fossero delle statue, entrambi col nome di Giovanni. Giovanni l'Apostolo, il ragazzo giovane, e Giovanni Battista, l'uomo più maturo con la barba che vedete. Realizzati proprio come se fossero delle statue, posizionati su un piedistallo, se notate, esagonale, cristallizzati proprio in questa posizione. Sono lievemente rivolti verso i donatori. Mi scusi, chi sono i donatori? Oh, sono degli aristocratici, adesso vi dico chi sono. Sono la famiglia Vid, V-I-I-Lunga-D. Proprio dei grandi possidenti di Gand. Diciamo la famiglia più in vista della cittadina, per capirci. Non più ragazzi, vero? Persone mature. Guardate che probabilmente erano persone che avevano massimo 50 anni. Ma ricordatevi l'epoca. 50 anni all'epoca corrispondeva ai nostri 80. È bene non dirlo a qualcuno. L'annunciazione. Questa annunciazione per molti aspetti è canonica. Cosa voglio dire con questo? Beh, che rispetta esattamente la posizione che la tradizione gli attribuisce. L'angelo alla nostra sinistra, Maria alla nostra destra. Lo troviamo praticamente in tutta la letteratura, da Beato Angelico a Giotto in Cappella degli Scrovegni. Giotto in Cappella degli Scrovegni addirittura ci mette l'angelo a sinistra e Maria a destra dell'arco trionfale, per capirci dell'arco che dà accesso all'abside. E proprio tutta la tradizione ci pone l'angelo a sinistra e Maria a destra. Grandi ali di angelo importante, è un arcangelo, per cui le ali sono policrome, blu, oro e rosse. Non lasciatevi ingannare da quello che sembra essere un verde, è un blu. Panneggio delle vesti incredibilmente ricco, coroncina in testa con pietre preziose, ma queste sono tutte cose che vedete. Questa straordinaria spilla che tiene chiuso il manto dell'angelo, che è tempestata di pietre preziosissime, e una Maria in lettura, che era in lettura, e qui riprendiamo quello che ci dicevamo già la settimana scorsa, con i capelli sciolti, in una situazione di estrema intimità. Lei è chiusa nella sua stanza, può tenere i capelli sciolti, non è un azzardo. Qual è la novità qui che dovrebbe ormai balzarvi agli occhi? Qual è la stranezza? Me lo sapete dire? È in un piano alto, cioè si vede un panorama che sembra che sia in un grattacielo. Prima osservazione, e poi? Il colore delle vesti. Il colore delle vesti. Dov'è il rosso? Dov'è finito il blu? Siamo in una situazione di infinita purezza, oppure anche l'arcangelo e Maria si sono cristallizzati un po' come le statue sottostanti? O volutamente non si utilizza il colore per i due soggetti sacri perché il colore rosso è stato utilizzato per i donatori, quindi dando una priorità, pensate un po', gerarchica, che vede i donatori che stanno in un piano inferiore, proprio nella posizione della costruzione della pala, ma ad un livello economicamente superiore. Maria era comunque una povera fanciulla. affidando al bianco invece la colorazione degli abiti di entrambi. Ma questa è anche un'altra scusa, diciamo così, un altro stratagemma per dimostrare la propria capacità tecnica. Bianco su bianco, credo sia tra, pur non dipingendo, credo sia tra le cose più complesse da rendere. Cosa nella quale i fiamminghi, appunto fino a Vermeer compreso, saranno grandissimi maestri. Forse l'unico pittore italiano che possa essere affiancato alla loro capacità di utilizzare il bianco è proprio Beato Angelico. Dove possiamo trovare qualcosa come 7-10 tonalità di bianco sul capitello di una colonna. Non è improbabile che ci siano delle conoscenze reciproche, parlo a livello tecnico, vero? A livello pittorico. Lo sfondamento prospettico. Qui siamo veramente nel grande sfondamento prospettico. Perché? Perché abbiamo, pensate un po', una doppia inquadratura simultanea a livello proprio di prospettiva. Perché? Perché io vedo le travi di questa stanza, no? E quindi sono in una posizione inferiore. Le travi seguono un'inclinazione, la pavimentazione è fortemente inclinata. Questo è proprio figlio della costruzione prospettica teatrale. L'inclinazione mi serve per vedere ciò che è sul palcoscenico. L'inclinazione mi serve per vedere che cosa sta dietro. Contemporaneamente, però, in tutta la zona del loggiato, o meglio, in ciò che sta oltre il loggiato, io ho una prospettiva frontale, che non segue il canale prospettico che mi si chiude da sopra e da sotto. Io ce l'ho proprio di fronte, ed è una lunga lasagna. Questo è un ulteriore modo per attirare la mia attenzione, perché il mio occhio non lo capisce, ma io guardo ciò che sta oltre quelle travi. Perché la prospettiva mi accompagna a guardare lì e quello che trovo lì non è quello che il mio occhio normalmente si aspetterebbe, perché io ce l'ho frontale. Che tipo di situazione mi dà? Beh, sulla sinistra io ho Gand con i canali d'acqua, proprio la classica situazione olandese, palazzi tardogotici, cielo azzurro terso e dettagli tipici proprio di un grande miniaturista. Non ho nessun elemento, qui abituatevi, nessun elemento sfumato. Tutto è perfettamente dettagliato, preciso. Guardate che questa sarà proprio caratteristica, peculiarità dei panorami fiamminghi, che Leonardo andrà ad offuscare con il famoso alone. Ma lei ha studiato anche scenografia? Ma devo rispondere, secondo voi? La pittura è sempre scenografia, è che la scenografia se ne dimentica. Pare una massima scritta da Confucio. Oh, cos'altro abbiamo che attira la mia attenzione di osservatore che guarda la stessa tavola o le stesse tavole più volte? Un'infinità di dettagli che noi non troviamo in altre annunciazioni. Noi solitamente abbiamo una struttura architettonica, Maria che è seduta, sta o leggendo da qui in poi o filando, come già abbiamo detto, uno scranno, una sedia, un trono, un pavimento, dei fiori a terra, quasi sempre gigli, perché lei comunque è una ragazza pura e perché poi abbiamo anche una tradizione che si tramanda legata agli apocrifi che qui non sto a dirvi, che vi ucciderebbe, e l'angelo, che a seconda del committente è più o meno in abiti sontuosi. Non abbiamo i dettagli della casa di Maria, Fino a qui non è importato a nessuno dirci in che stanza lei si trovasse. Se noi guardiamo bene, quella che ci sembra essere una sua stanza nella quale legge torna ad essere una cucina. Torna, l'abbiamo lasciato con i coniugi Arnolfini. Cosa me lo fa pensare che sia una cucina? La presenza di un contenitore sospeso in rame, lucido, con sotto un catino. È un lavatoio che fa parte della camera da letto, ma che io posso avere anche in cucina. Può sostituirsi a quello che noi chiameremo oggi lavabo, il lavandino della cucina, che non c'era, vero? Non c'era l'acqua corrente, per cui era comunque un lavatoio. E pensate un po' alla finezza, abbiamo un meraviglioso asciugamano di fiandra appeso, bianco, ma con tre tonalità di bianco che nulla hanno a che vedere con l'abito illuminato sia di Maria che dell'angelo. La fiandra è un tipo di tessitura, vero? Legata proprio a quest'area geografica. Struttura goticheggiante, apertura di una finestra trilobata, la trilobazione poi l'abbiamo anche nella bifora che sfonda ulteriormente la prospettiva, perché questa finestra appartiene ad una stanza che va oltre questa balaustra. È come se fosse un braccio del palazzo. E guardate anche qui la finezza. È una stanza che ha due finestre. Quella che io vedo e quella riflessa sulla parete di fronte. Infinita capacità di dettaglio per lavorare con la luce. Perché qui ho una fonte luminosa che mi entra dal fondo, cosa che amerà moltissimo Leonardo. Pensate all'ultima cena, no? Milanese, per esempio. Ho una finestra con una proiezione luminosa che mi entra da sinistra, tipica della tradizione italiana, ma io ho un'incredibile fonte di luce frontale a tutto l'insieme, che è quella che illumina sia l'angelo che Maria. Per cui io ho più punti luminosi che vanno a sconvolgere la situazione, perlomeno della tradizione italiana. Uno che mi arriva dal fondo dell'opera, e se vi ricordate noi questo già l'abbiamo visto nella famosa miniatura di Torino, per cui in quella cosa minuscola della camera da letto con il letto rosso, abbiamo una fonte luminosa frontale, una che mi cade secondo la tradizione da sinistra e fate attenzione perché ne ho una in diretta che mi arriva anche da destra. Per cui è come se io avessi una scatola scenica forata su tutti e quattro i fronti, su tutti e quattro i lati. Capite che bisogna essere capacissimi per riuscire a realizzare un lavoro come questo? E che proprio niente è casuale? Tutto ciò che è di metallo è incredibilmente lucido e riflette luce. È un'annunciazione, per cui luce veramente ovunque. Inoltre, se notate, dietro Maria noi abbiamo una nicchia che contiene una serie di oggetti. Libri chiusi, candelabri privi di candela e un lume, una lanterna. Oggetti spenti che però ancora parlano di luce. Lanterna, candelabro e anche i libri. Ricordatevi che siamo in un mondo in cui passo dopo passo il libro diventerà un fenomeno borghese. Nelle Fiandre quanto a Venezia. E siete salvi, perché la parte dell'angelo è molto più semplice. Abbiamo comunque uno sfondamento prospettico ulteriore, come se questa stanza fosse proprio un lungo rettangolo con due braccia gettanti oltre, per cui ho il loggiato che si apre e sulla destra quanto sulla sinistra altre due stanze che mi allungano la prospettiva e l'illusione ottica. Pensate un po' che è ancora chiusa la tavola. Lo so che mi odierete alla fine di questo corso, lo so. Sopra abbiamo tutta una serie di immagini legate alla saggezza, alla giustizia e ad un sapere che non è solo cristiano. Colui che abbiamo nella parte centrale, che sembra vestire i panni di un domenicano, domenicano non è, vero? È un orientale con tanto di turbante a righe, e quindi è proprio medio orientale, non è cristiano, non porterebbe le righe diversamente, e porta addirittura un orecchino all'orecchio destro. L'umiltà, per cui il sapere, l'umiltà, un dottore della legge del mondo ebraico, e qui possiamo leggere questa figura sia come un altro dottore della legge, o se preferite possiamo leggervi anche la presenza di Dio Padre. Personalmente lo escluderei però per la posizione. Forse Dio Padre dovrebbe essere centrale, potrebbe essere centrale, a meno che non si legga questa situazione come una deesis. Cos'è una deesis? È l'ordine gerarchico della divinità. Da Deum, Dio. La deesis è proprio una tradizione iconografica che noi abbiamo veramente dal paleocristiano in poi, dove abbiamo in asse la divinità. In questo caso noi avremo il Padre, per cui Dio Padre, lo Spirito Santo, che di fatto è l'incarnazione, per cui è come se fosse il Figlio in potenza, e Maria. Per cui Dio Padre, che gerarchicamente è il più potente, il Figlio, che non si è ancora incarnato, si sta incarnando, che contemporaneamente è anche Spirito Santo, e la Madre di Dio. Allora sì, avrebbe un senso. Entriamo dentro la tavola e qui sì che ci si complica la vita. Abbiamo una serie di elementi spaesanti per certi aspetti. Non li vedremo tutti, non preoccupatevi. Facciamo un discorso generale, anche perché oggi voglio fare altro. Abbiamo Dio Padre in trono, vestito come se fosse un papa. Ah, scusate, come funziona? Questi sono gli sportelli, vero? Per cui l'annunciazione è qui dietro. Ci siamo? Vediamoli contemporaneamente, perché scusate l'abitudine di andare dando le cose per scontato. Ecco qui, immaginate che questo punto è la parte centrale, d'accordo? E che si possa proprio aprire, si apre. Ecco che questa parte è uno sportello, lo sportello di destra, che corrisponde a questo. Lo faccio vedere così. Eccolo. Questo è lo sportello che corrisponde a questa parte e a quest'altra, d'accordo? E anche questo è lo sportello. Gli angeli cantori corrispondono all'angelo e Adamo corrisponde alla finestra. Ci siamo? Ciò che è nascosto dietro a questi due sportelli è la vera pala d'altare. È questa, composta da quattro elementi, da quattro tavole distinte, inchiodate tra di loro. Voi dovete immaginarlo proprio posizionato, posato sull'altare maggiore e apribile, come se fosse un armadio, per capirci. Forse questo vi aiuta un po' di più. Armadi con le ante, d'accordo? Dietro a Maria io ho molto probabilmente Santa Cecilia. Oh, non vi chiederò mai che santa è, se può consolarvi. Quella che suona. Colei che suona all'organo, sì. Protettrice dei musicisti e della musica. Ma potrebbe anche essere un angelo cantore, non ci cambia granché. Noi abbiamo strumenti musicali. Guardate che volutamente sto scegliendo queste opere perché hanno tutta una serie di elementi che noi poi ritroveremo in Bosch. E vi invito a ricordarli questi elementi, perché Bosch ne darà letture diverse. So che non è una buona notizia, però è così. Che strumenti sono? Perché vi ripeto, niente è casuale. Sono strumenti colti. Siamo in un periodo storico in cui la musica si divide tra musica mondana e musica alta. La musica mondana è quella che noi chiameremo come musica laica, culturalmente però meno colta della musica sacra, composta magari dagli stessi autori, dagli stessi compositori, però per due pubblici diversi, la corte e il clero. La musica sacra è legata all'entità divina, a Dio, e di conseguenza non può essere eseguita da ogni sorta di strumento. Deve essere eseguita da determinati strumenti musicali. Anzi, meglio sarebbe, secondo la tradizione trecentesca, non vi fossero proprio gli strumenti, perché la musica più alta, e in questo Dante Alighieri già dovrebbe averci abituati, è quella vocale, è quella del coro, quella della voce. Perché? Perché è l'unica vera musica che nasca direttamente dall'uomo, dal corpo, da ciò che Dio ha creato direttamente. Gli strumenti musicali sono costruiti dagli uomini, sono una cosa indiretta. Non a caso abbiamo comunque un coro, abbiamo degli angeli cantori, vestiti tra l'altro con dei broccati, per cui con dei manti rossi di porpora, ricamati in oro e anche in verde. E anche in blu, e questo è proprio verde. Molto probabilmente qui inteso come colore di rinascita. Gli strumenti musicali che vediamo sono tre, proprio di fronte, diciamo così. Un organo a canne, una cetra, una piccola lira, per capirci è un'arpa piccola, e una viella. Una viella, si chiama così. Questa che vi sembra essere un violino tenuto nel modo sbagliato, è una viella. Si suonava tenendola o appoggiata come se fosse un violino, o sulle ginocchia. Bisnonna, trisavola, se volete, del violoncello, ma in modo proprio arcaico. Perché proprio questi tre strumenti? E posso dirvi che ne manca un quarto, che avrebbe dovuto esserci, che poi troveremo ripetutamente, che è il liuto. il nonno del mandolino, il bisnonno della chitarra. Perché sono strumenti che appartengono alla musica colta. L'organo a canne, dal Concilio di Trento in poi, verrà considerato l'unico strumento accettabile all'interno delle chiese, per dare l'intonazione ai cori, non per suonare. Anche se è vero, ricordatevi, ogni regola è scritta per essere infranta. Per cui a Venezia si suonava con qualsiasi tipo di strumento dentro San Marco. Viella, liuto e arpa, chiamiamola arpa, sono tre strumenti a corde. Per suonarli io li devo pizzicare o strofinare. Pizzico l'arpa, pizzico il liuto, come se fosse una chitarra suonata senza plettro, per capirci, e la viella la suono strofinando con un arco le corde. Sono considerati strumenti eleganti, strumenti raffinati, colti. Hanno un suono piccolo, discreto, che si sente in una stanza, già in salone li perderemo. Non sono strumenti mondani. Sono strumenti che, se proprio dobbiamo mettere degli strumenti, troveremo in paradiso. Questo secondo la cultura dell'epoca, vero? Se abbiamo strumenti in paradiso, dobbiamo per forza averne anche all'inferno. All'inferno troveremo strumenti a fiato. Flauti, ciaramelle, traduco, cornamuse, zampogne, percussioni, soprattutto le percussioni fatte di metallo, i campanelli, i sonagli. Perché sto delirando con gli strumenti musicali in una lezione di storia dell'arte? Ma quello che dice il Trillo del Diavolo. Il Trillo del Diavolo è scritto su un violino, se ci pensi, no? Paganini, siamo avanti. Del diavolo perché è estremamente complesso e quindi devi essere diabolico per riuscire a suonarlo. E credo sia vero, perché tecnicamente è pazzesco. Gli strumenti che appartengono al diavolo, e lì il violino poi sarà uno di quegli strumenti che possono rubare l'anima, ma questa sarà un'idea che arriva da est, non appartiene a noi, arriva proprio dal mondo slavo. L'idea che il violino possa essere specchio dell'animo umano e quindi il diavolo cerchi di rubare l'anima attraverso il violino. Abbiamo tutta una favolistica legata a questo, tra l'altro, nel mondo russo. Qui invece che siamo prima, nella sfera del demoniaco troviamo gli strumenti a fiato perché è un'antichissima derivazione dal mondo dionisiaco, da Dioniso, Pan per capirci. Il flauto era uno strumento che in quest'epoca poteva rubare l'anima, perché dal mondo antico, e questo sicuramente ve l'ho già detto, sicuramente l'ho già detto a medievale, l'anima usciva dalla bocca, secondo la tradizione antica, e tutti gli strumenti a fiato possono farmi perdere l'anima, perché l'anima uscendo dalla bocca può entrare nel flauto e lasciarmi. Il diavolo è bravissimo in questo, farà di tutto per indurmi a perderla. Guardate che questo sicuramente è retaggio di quel passaggio iconografico che vede Dioniso diventare gradualmente Lucifero, o meglio il diavolo prendere le fattezze di un satiro, perché è un ibrido, per metà uomo e per metà capra. E suona il flauto diritto, il flauto di legno. Ma da lì che non si accoppia una capra, perché la capra è il simbolo del male, quindi andava proprio così. No, lì è una storia molto molto più antica e probabilmente la verità vera non l'abbiamo ancora capita. Perché ci sono varie interpretazioni. Sì, varie letture, tragedia significa, è proprio tragos odè, canto in onore del capro, canto del capro. Per cui c'entra, ma in che termini ancora la filologia non è riuscita proprio a coglierlo. Ecco che gli strumenti a fiato saranno relegati all'inferno. Gli strumenti a pizzico o gli strumenti comunque a corda e l'organo, considerato strumento capace di cantare, ma non attraverso la voce, attraverso un meccanismo particolare che spara aria all'interno delle canne e quindi che non è di fatto un flauto suonato da un uomo in modo diretto, apparterranno invece alla musica celeste, alla musica alta. Ricordatevelo bene, perché in Bosch noi troveremo molto spesso il liuto con un personaggio che canta accanto a una ciaramella, a una zampogna per capirci, una cornamusa. Quindi mescolando musica alta a musica demoniaca. Gli strumenti a sonaglio, perché sono all'inferno? Perché nell'antica tradizione tardogotica, dall'antica tradizione tardogotica, per tutto il Rinascimento fino al Barocco, saranno strumenti che in molte aree geografiche d'Europa potranno essere suonati nei vari cortei, nelle parate, nei tornei, nelle feste sacre o laiche, civiche, dall'etnia musulmana. Guardate che fa parte delle demenzialità di quest'epoca. Perché? Perché i fabbri tendenzialmente erano di culto musulmano. Era uno di quei mestieri che venivano concessi ai musulmani. Perché non erano, secondo la tradizione, in grazia di Dio. Perché erano figli del diavolo e quindi lavoravano nelle fornaci, fondevano i metalli. Da qui l'obbligo di suonare gli strumenti in metallo. Vi rendete conto? Adamo ed Eva. Beh, rispetto a tutta questa storia, Adamo ed Eva sono niente. Ma ne parliamo dopo una pausa caffè. Quindi prego. Scusi, fuori la concezione e quando apre la mia mistica. Certo. 10 minuti? 5? Io dico 10 perché tanto so che saranno 15. Va bene? Posso chiedervi anche di aprire le finestre così cambiamo l'aria? Grazie.